Uno, due, tre. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Eccoci qui, cari ascoltatori, sono le 7:21 minuti, siamo pronti allora a leggere i giornali. Vi ricordo che oggi urne aperte, tra l'altro da 20 minuti, urne aperte fino alle 15, parleremo di tutto fuorché di politica, parleremo di italiani e gioco d'azzardo legalizzato. Questo dalle 8:15 con diversi ospiti. E allora andiamo subito a vedere cosa ci propongono i quotidiani in edicola. Questo lunedì 25 febbraio, intanto i titoli, il Sole 24 Ore parla di nelle liti con i contribuenti il fisco sceglie la linea dura, questo è il titolo di prima pagina, quindi dal redditometro all'IRAP la parola d'ordine dell'agenzia è resistere, il rapporto tra nelle cause tra il fisco e gli italiani. Corriere della Sera, Italia al voto, cade l'affluenza, elettori giù del 7,3%, dati più alti per le regionali. Repubblica, l'Italia sceglie, crolla l'affluenza, vota solo il 55%. La Stampa, elezioni, votanti in forte calo. Il Messaggero, elezioni, affluenza in calo. Il Giornale, ultima chiamata alle urne, dai, non è finita. Il Fatto Quotidiano, l'edizione del lunedì, fuga dal voto, calo al nord, crollo al sud. L'Unità, voltiamo pagina. Il Secolo XIX al voto, l'8% in meno, contestato Berlusconi. Questo è il titolo di apertura. Insomma, come vedete, ci si concentra soprattutto sui dati di affluenza, quello che più si può dire in questo momento di urne aperte. Ma io subito voglio partire con il mantra, con quello che è diventato un hashtag anche su Twitter. Che parola, per chi conosce Twitter sa cosa vuol dire, se no pazienza. Mani sul volante, cari ascoltatori, perché vi sto per raccontare quello che Sergio Rizzo pubblica sul Corriere della Sera, un'intera pagina sotto il titolo, a pagina 26, i costi spaziali dell'agenzia. La sede passa da 12 a 84 milioni di euro. È un'analisi dei costi della costruzione della sede dell'Agenzia Spaziale Italiana. E scrive Rizzo, a chi fosse alla ricerca di nuovi incubi, consigliamo un'interessante lettura, una delibera dell'autority che vigila sulle forniture pubbliche, dove si racconta nei dettagli la storia della sede dell'Agenzia Spaziale Italiana, ente statale che gestisce ogni anno 700 milioni di euro, e di come abbia fatto il conto senza che nessuno battesse ciglio a moltiplicarsi per 6. Da 24 miliardi di vecchie lire, quindi 12 milioni di euro di costo, lievitata a quasi 84 milioni e mezzo di euro. Quella delibera, approvata il 19 dicembre scorso, è il frutto di un'indagine scattata dopo un esposto della Procura della Corte dei Conti. Una vicenda che inizia nel 99 e dunque nel giro di 13-14 anni si è moltiplicato questo costo da 12 a 84 milioni di euro. Tenete bene a mente le cifre. Una vicenda, ripeto, che inizia nel 99, scrive Rizzo. Per la nuova sede dell'agenzia viene identificata inizialmente l'area della ex caserma Montello nel quartiere Flaminio di Roma. Concorso internazionale, vince l'architetto Fuxas, costo previsto 24 miliardi di lire. Per l'appunto poi cambia il governo, dal governo Amato si va a quello Berlusconi e quindi si sostituisce e tutto, la cosa inspiegabilmente si ferma. La convenzione col Ministero delle Finanze firmata qualche anno prima finisce nel cestino, insieme al lavoro di Fuxas, che peraltro viene liquidato per il disturbo, diciamo così, con la modica cifra di 1.378.177,22 euro. Un inutile dispendio di denaro pubblico, stabiliscono i commissari dell'autority, è difficile dargli torto, ma d'altronde il progetto viene messo da parte, viene accantonato e dunque l'architetto prende quei soldi. Ma il meglio deve ancora arrivare, perché l'agenzia sostiene l'indisponibilità in quel momento di competenze professionali adeguate a gestire una realizzazione della complessità della nuova sede, la ragione per cui viene affidato tutto al provveditorato delle opere pubbliche del Lazio, cioè Angelo Balducci, lo stesso che anni dopo finirà travolto dalle inchieste sulla cosiddetta cricca. E si fa lo studio di architettura, nuove commissioni, elaborati preliminari, si arriva subito a 43 milioni, si raggiungono poi 61 milioni, non è finita, perché ci sono le inevitabili perizie di variante, una serie di opere complementari, fino a 84.434.755 euro e 65 centesimi. Toh! Così, e così il costo. Ma questo è un esempio di uno dei costi lievitati dei tanti dell'Italia. Ecco che da 12 milioni di euro che doveva costare, costerà 84 milioni di euro. E tra l'altro l'autorità di vigilanza contesta: quest'opera è stata affidata senza motivo a trattativa privata. Sergio Rizzo sul Corriere della Sera, pagina 26. Ebbene sì, queste cose succedono in Italia. Allora, intanto abbiamo sentito un GR Sport, è in arrivo forse Diego Armando Maradona. Il giorno in cui il Sole 24 Ore mette, poi le vedremo, mette a pagina, in prima pagina e poi a pagina 2-3, il rapporto tra il fisco e i contribuenti, col fatto che il fisco nelle liti con i contribuenti sceglie in genere la linea dura, e Maradona invece cosa sceglie? Sceglie di venire in Italia. È atteso oggi, questa mattina, dovrebbe prendere un aereo, come racconta il quotidiano nazionale, alle 9.10 da Dubai, destinazione Fiumicino. E quello che succederà dopo che è, scrive Nino Femiani, è una sceneggiatura con finale aperto. Ad esempio, troverà ad attenderlo gli uomini della Guardia di Finanza che lo braccano da anni? Cosa faranno le divise delle Fiamme Gialle nello scalo capitolino? Gli sequestreranno i preziosi, il portafogli? Lo fermeranno? Interrogativi che scopriremo solo quando l'aereo metterà le ruote sul suolo italiano con l'uomo che deve all'erario nostrano, così dice l'Agenzia delle Entrate, 40 milioni di euro. Maradona atterra a Fiumicino, ma il fisco lo attende al varco. Oggi l'arriva un debito di 40 milioni. Lui dice: voglio vedere Giorgio Napolitano per dimostrare che non è un evasore fiscale. Ha chiesto un incontro col Presidente della Repubblica, è pronto alla battaglia. Aveva dichiarato anche in un recente messaggio che non sarebbe venuto in Italia in questo frangente per evitare strumentalizzazione dei soliti nemici. E invece forse lo farà, ma io dico, ma davvero sarà così? Io non ci credo tanto che prenderà quell'aereo. In ogni caso i giornali oggi titolano così: il PIB torna a Napoli, ma i guai col fisco avvelenano l'attesa. Anche sulla Stampa, pagina 16, mezza pagina, firma Antonio Salvati, da uomo libero passeggerà sul lungomare liberato, da contribuente perseguitato invece, come sostiene da tempo, tuonerà contro il fisco da una sala intitolata a Masaniello, il capopopolo che guidò la rivolta dei napoletani stanchi. Maradona ha annunciato il suo arrivo a Napoli questo pomeriggio per dimostrare che sono un uomo libero e per chiarire che tutta la cattiva informazione è stata fatta sul mio conto. Ma anche il secolo XIX, il Pive d'Oro ritorna in Italia e sfida il fisco. Lo farà davvero? Questo è il giorno in cui è la notizia più attesa. Ovviamente questa è una battuta. L'arrivo o no di Maradona questa mattina in Italia. Staremo a vedere, intanto ci fermiamo per la pubblicità del meteo e rientriamo tra 5 minuti. Ed ecco Alessandro Milan che legge i giornali come nessuno al mondo sa leggerli. Allora, eccoci qua alle 7:34 minuti. Vi ricordo che le urne sono aperte, riaperte fino alle 15, poi dalle 15 inizierà la lunga diretta di Radio 24 per non abbandonarvi neanche un minuto anche questa notte per darvi tutti i risultati. Di cosa si può dire per quel che riguarda i giornali? La notizia che viene lanciata da tutti i giornali è che i votanti sono in forte calo rispetto alle ultime elezioni legislative, oltre 7 punti in meno. Ieri l'affluenza al 55%, oggi comunque c'è tempo ancora di votare fino appunto alle 15. Bene invece le affluenze sulle regionali: in Lazio al 53,19% rispetto al 43,39% dell'ultima consultazione, in Lombardia al 57,87% rispetto al 49,31% del 2010, mentre in Molise al 41,49% meglio rispetto al 39,48 del 2011. Dunque l'affluenza a livello regionale invece maggiore rispetto alle ultime consultazioni. Che cosa si può dire della giornata di ieri, almeno raccontata dai giornali? Beh, ci sono tutte le foto dei leader che hanno votato. Non hanno votato ancora Oscar Giannino e Beppe Grillo, atteso, scrive il Corriere, dai cronisti nel seggio di Sant'Ilario, probabilmente un ritardo calcolato per far crescere anche la curiosità e l'effetto di questo voto. C'è stata la contestazione di tre attiviste di Femen, questo movimento nato in Ucraina nel 2008 e che ha fatto molte contestazioni in giro per il mondo. Ieri tre attiviste di Femen si sono mostrate a seno nudo davanti al seggio dove ha votato Silvio Berlusconi. Blitz di Femen, le attiviste in topless, caos al seggio di Berlusconi, così titola per esempio il Corriere della Sera, pagina 5. Giù le zippe, in un attimo gli Eskimo scivolano via, la protesta femminista tenta di rompere su Silvio Berlusconi, tre corpi a seno nudo di altrettante sex estremiste, un grido basta Silvio. Questo ieri mattina è successo al seggio della scuola Dante Alighieri di via Scrosati a Milano. Alle 12.30 arriva il Cavaliere, attendono la solita resta di giornalisti, tra loro anche tre ragazze quasi mimetizzate, di certo inosservate nonostante l'avvenenza. Hanno il pass di un'agenzia di stampa internazionale. Non appena Berlusconi si avvicina, scatta l'azione, si spogliano, urlano. Basta Silvio, basta Berlusconi, tentano di saltare su quei banchi di scuola posti a mo' di transenne. E insomma, le immagini forse le avete viste con anche la polizia che le ha fermate, non senza difficoltà, perché si dimenavano alquanto. Tra l'altro racconta il Corriere, anche al seggio Berlusconi ha avuto ha detto qualche parola a una delle scrutatrici, una ragazza che insomma era molto seriosa. Lei deve imparare a sorridere, ha detto Berlusconi. Mi sono imbarazzata tanto che mi veniva da piangere, confessa lei in serata. E tra l'altro scrive il Corriere, non ha fortuna, perché la scrutatrice è figlia di un consigliere di zona 6 del Partito Democratico. Comunque, questo per quel che riguarda la contestazione. Ah, una delle contestatrici del Femen, come ho detto prima, intanto se non abbatto il microfono è meglio, come ho detto prima, si chiama Inna Shevchenko. Andava benissimo per il derby ieri, sicuramente il risultato sarebbe stato diverso. Inna e le altre, viene anche intervistata da Repubblica, Nais Ginori, la intervista a pagina 3. Inna e le altre, Silvio è il più sessista che ci sia, abbiamo attaccato lui. E poi la polizia italiana è stata brutale, violenta, ma noi di Femen siamo preparate anche a questo, dice quando viene raggiunta in serata da Repubblica dopo che è stata rilasciata dalla Digos. Inna Shevchenko. Lo ripeto perché ho nostalgia certamente del cognome. C'è anche, scrive il Messaggero, il giallo di quello che è successo ad Anzio, racconta Ivo Iannozzi a pagina 7. La presidente del seggio nasconde due schede elettorali, questo è il titolo, denunciata per violazione della legge elettorale, distruzione di atti veri, la presidente del seggio numero 30, e scrive il Messaggero, attivista del Partito Democratico nella zona quartiere alla periferia di Anzio. Sabato pomeriggio, durante l'operazione di timbratura delle schede elettorali, ne ha nascoste due nella propria borsa, due di colore verde, quelle per il voto delle elezioni regionali. Se ne accorge dell'irregolarità la rappresentante di lista del Movimento 5 Stelle. La presidente ha cercato di spiegare che le schede le aveva messe da parte perché i timbri avevano lasciato delle sbavature, dunque erano riconoscibili. Insomma, è nato un parapiglia verbale. Alla fine la presidente ha stracciato le due schede e poi si è dimessa, ha rinunciato al proprio mandato da presidente. Il fatto che sia un'attivista storica del Partito Democratico ad Anzio ha già lasciato una scia di polemiche, soprattutto nella rete, così racconta il Messaggero. Se volete un'altra polemica, è che invece alcuni rappresentanti del Movimento 5 Stelle hanno fotografato la scheda e il voto e l'hanno messo su Facebook, come dire, ecco il mio voto per il Movimento 5 Stelle. Apriti cielo, attenzione, è una cosa vietata, c'è scritto in tutti i seggi appena si entra, d'altronde dovrebbe essere ritirato il telefonino che fa le foto, c'è anche scritto si rischia il carcere e si rischia, scrive Repubblica, anche l'annullamento del voto. L'autore di uno degli scatti tra l'altro dice: cosa c'è di male, non capisco. In realtà è una cosa vietata dalla legge. C'è poi la polemica sempre sulla questione, il tormentone del leccate le matite, il Secolo XIX a pagina 4. titola al Movimento 5 Stelle: teme brogli, leccate le matite, se non lo fate cancelleranno il voto dalla scheda. C'è anche la questione delle matite da leccare oppure no. Ilario Lombardo racconta: in un comune della Basilicata invece i cittadini disertano le urne contro la chiusura delle poste. Beh, ogni elezione porta anche alcuni aspetti, se volete, di colore, almeno dal punto di vista giornalistico. Oppure a Prato il PD locale ha chiesto la sostituzione di uno scrutatore che incidentalmente fa anche l'assessore al comune. A Possidente di Avigliano e Sant'Antonio Casalini di Bella in Basilicata i cittadini hanno deciso di non votare per protesta invece contro la chiusura degli uffici postali. A Napoli 1000 tifosi sono scesi a manifestare in piazza Plebiscito intonando "tu mi tesseri e io non ti voto", astensione di scambio. Mentre qualche chilometro più là, Ercolano, 5 seggi sono stati spostati da una scuola chiusa per lavoro, ma nessuno aveva avvertito gli elettori. E vabbè, sono cose anche che succedono durante le elezioni. A proposito di Beppe Grillo, c'è un'accusa del giornale Francesco Maria Del Vigo a pagina 9: Beppe imita Giannino, balle sull'aiuto del Nobel. Scrive il giornale che il programma del Movimento 5 Stelle, in cui si dice è stato scritta una parte, la parte economica, dal premio Nobel Joseph Stiglitz. Scrive il giornale: abbiamo scritto a Stiglitz, ci ha risposto via mail Ania Stiglitz, moglie del premio Nobel, dicendo che non siamo stati gli unici a porgli questa domanda e che tutte le dichiarazioni e i discorsi di mio marito sono online. Consultando le registrazioni pubbliche si può vedere se ha mai sponsorizzato il Movimento 5 Stelle. Per poi aggiungere: sul partito di Grillo non so neanche che cosa sia. E quindi c'è questa polemica del giornale, balle sull'aiuto del Nobel. Vabbè, si vota fino alle 3, ve lo ricordo, e poi dalle 15 ci sarà lo spoglio delle schede elettorali, e fin dalle 15 Radio 24 seguirà passo passo questa vicenda delle elezioni legislative oltre che le elezioni regionali. Passiamo alla vicenda del Papa. Ieri l'ultimo Angelus di Ratzinger. Cosa ha detto il Papa? Forse l'avete sentito anche in audio. Pregate per me perché io non fugga per paura davanti ai lupi, aveva detto il 24 aprile del 2005. Ieri, come racconta il Corriere della Sera con Gian Guido Vecchi, ha detto il Papa: il Signore mi chiama a salire sul monte, a dedicarmi ancora di più alla preghiera e alla meditazione. Poi, alzando la mano con l'anello piscatorio, punta l'indice in alto come a dire sia ben chiaro, e scandisce: ma questo non significa abbandonare la Chiesa, anzi, se Dio mi chiede questo è proprio perché io possa continuare a servirla con la stessa dedizione e lo stesso amore con cui ho cercato di farlo fino ad ora. Certo, non passa giorno senza che non ci sia una nuova polemica sul conclave che sta per aprirsi. La nuova, dopo le vicende che riguardano il cardinal Mahony, accusato di avere coperto preti pedofili quando era arcivescovo di Los Angeles, e che resiste, vola a Roma, intenzionato a entrare assolutamente nel conclave perché è cardinale. La nuova polemica riguarda il cardinale scozzese Keith O'Brien. La vicenda la raccontano i giornali, il Corriere della Sera, Repubblica. Il cardinale O'Brien finisce sotto accusa, approcci impropri. Questa è l'accusa di 4 ex seminaristi. Scrive per esempio Repubblica con Enrico Franceschini a pagina 12 sotto il titolo "Bufera su O'Brien, cardinale anti-gay, 4 preti lo accusano, ci ha molestati". Doveva dire messa ieri mattina nella cattedrale di St. Mary a Edimburgo per celebrare gli 8 anni di pontificato di Papa Benedetto XVI, ma al posto del cardinale O'Brien, massima autorità della Chiesa Cattolica in Gran Bretagna, sul pulpito è apparso un vescovo ausiliario, Stephen Robson. "Non possiamo non dirci rattristati dalle notizie delle ultime ore", ha detto ai fedeli. Notizie esplose come una bomba tra i cattolici del Regno Unito: l'accusa di molestie sessuali da parte del cardinale nei confronti di 4 preti consumate nell'arco di 30 anni. Rivelata in prima pagina dall'Observer di Londra, Gli atti inappropriati, così sono definiti e attribuiti, sono rimbalzati immediatamente in Vaticano, dove il portavoce della Santa Sede, padre Lombardi, ha reso noto che il pontefice è stato informato e la questione è nelle sue mani. I quattro che lo accusano, che accusano il cardinale O'Brien, sono tre preti e un ex sacerdote appartenente alla diocesi scozzese di St. Andrews ed Edimburgo, che hanno inviato le loro accuse a Londra al nunzio apostolico, cioè il corrispondente dell'ambasciatore Antonio Mennini, chiedendo le dimissioni immediate del cardinale dal suo incarico. Certo, racconta il Corriere, sono vicende avvenute negli ultimi 30 anni, quindi ovviamente ci si chiede perché vengono fuori adesso, proprio a ridosso del conclave. Questa sarà certamente una delle difese, come dire, come mai proprio adesso arrivano queste polemiche. Se lo chiede nel suo editoriale sul Foglio Giuliano Ferrara, che dopo averlo fatto anche nei giorni scorsi, anche oggi in prima pagina del Foglio torna alla carica contro queste polemiche contro il Vaticano, e da qui ripartiamo dopo le informazioni sul traffico. Giuliano Ferrara in prima pagina del Foglio: quella caricatura del liberalismo che sono le inchieste sul Vaticano. Scrive: finalmente anche il Vaticano ha cominciato a reagire. La segreteria di Stato, il portavoce della Santa Sede, hanno detto sabato quel che tutti i non conformisti avrebbero dovuto dire da subito. Hanno detto che le inchieste farlocche sulla lobby gay, sugli appalti, tutta la movimentazione sghemba e accidiosa delle notizie presunte sul malaffare vaticano e le connivenze del clero con gli abusi pedofili sui minori sono orchestrazioni a sfondo politico ed elettorale, sono campagne per colpire il papato, per intimidire i cardinali, per sferrare nuovi colpi a una chiesa dolente che cerca di fissare nel rispetto delle sue antiche regole i termini inauditi di un passaggio di consegne tra un pontefice che ha liberamente deciso di andarsene rinunciando alla carica e uno che deve essere eletto altrettanto liberamente. Scrive più avanti Ferrara: ci domandavamo nei giorni scorsi, denunciando la strategia della calunnia, il silenzio corrivo dei cattolici di fronte ad essa, se i paolini siano diventati pazzi. Adesso c'è solo da sperare che questa domanda se la rivolgano direttamente loro stessi. Sottoporre a referendum tra i lettori di Famiglia Cristiana il diritto, che è un dovere canonico dei cardinali, a partecipare al conclave. Che idea basso secolarista! Quale bizzarro calco del morboso a mezzo stampa con cui in tanti vorrebbero una chiesa a bocca chiusa e la fine nell'umiliazione, nel disdoro, nell'impotenza, nell'intimidazione di un ciclo papale da Giovanni Paolo II a Benedetto XVI, che ha dato al mondo alcune delle azioni e delle idee più efficaci a tutela della sua libertà, dalla vittoria sul comunismo alla messa in questione delle certezze scientiste sulla manipolazione della vita umana, sul prepotere del relativismo immoralista che schiaccia i canoni ovvi di una vita decente. Se la prende, insomma, Ferrara proprio con quel sondaggio di Famiglia Cristiana che aveva messo nero su bianco la domanda per gli elettori: dovrà partecipare o no il cardinal Mahony al conclave? E oggi in qualche modo gli risponde, anche se a mezzo stampa, Don Antonio Sciortino, il direttore di Famiglia Cristiana, intervistato dal quotidiano nazionale. Troppi scoop, ma lo sporco c'è, questo è il titolo. Dice Don Antonio Sciortino: ammette che forse in certi casi abbiamo esagerato, ma allo stesso tempo invitiamo a non generalizzare. Se il nostro lavoro mira alla verità, svolge un servizio prezioso. Anche Bertone ha esagerato con una nota che è stata severa. Detto questo, però, non sempre le ricostruzioni e le dietrologie che si pubblicano sui giornali corrispondono al vero. L'opera giornalistica di per sé non ha nulla da rimproverarsi quando racconta la verità, dice Don Sciortino. Cosa è emerso però alla domanda dall'intervento dei vostri lettori sull'opportunità o meno che il cardinal Mahony debba intervenire al conclave? Molti hanno avanzato dubbi o posto domande sull'opportunità che Mahony voti al conclave. Sul punto però il diritto canonico è chiaro: non c'è nulla che possa togliere a un cardinale il diritto dovere di voto. Questo Don Sciortino dopo la nota del segretario di Stato Bertone, che ha parlato di falsità dai media per condizionare l'elezione del Papa. Veniamo alle notizie di Cronaca Economia. Beh, intanto mi ha colpito molto su Repubblica questa notizia che trovate a pagina 17, cari italiani: il 60% delle imprese in Italia si indebita per le tasse. Così scrive Luisa Grion, è un 3 su 5, per la verità di più, il 63%. Questo almeno certifica un'impresa che ha fatto un sondaggio sul campione di 130.000 aziende E questa fotografia, dalla quale emerge una difficoltà generalizzata a fare i conti col fisco, che ha portato quasi 82.000 delle aziende consultate a indebitarsi per onorare le scadenze. Non so se avete capito bene, cioè le aziende chiedono un prestito non per investire, non per realizzare un progetto, non per rinnovarsi, non per riaprire un capannone, ma semplicemente per pagare le tasse. Il 60% delle imprese si indebita per le tasse, così su Repubblica a pagina 17. A proposito di tasse e fisco, il Sole 24 Ore oggi fa due pagine, l'apertura di prima pagina sulle liti con i contribuenti, è tutta un'analisi di tutte le varie liti fatta dal Sole 24 Ore per arrivare a capire che nel processo tributario il fisco resiste e mantiene la linea dura, avanti con le liti anche se la giurisprudenza è sfavorevole. Così a pagina 2 del Sole si legge: il fisco sceglie la linea dura nelle controversie con i contribuenti, dal redditometro agli studi di settore. Chi sfida in giudizio l'amministrazione finanziaria rischia di trascinare il braccio di ferro fino in Cassazione. Questo si capisce dall'analisi di tutte le gli accertamenti. Quando il fisco ritiene che un'impresa, per esempio, abbia compiuto un'operazione antieconomica per ridurre il reddito dichiarato, l'input ai funzionari è quello di insistere. È il caso di chi vende prodotti con un ricarico molto inferiore alle medie di mercato. Nella stessa categoria rientrano anche le situazioni in cui le entrate, di fronte a una contabilità del tutto inattendibile, considerano che una parte della merce acquistata dell'anno sia stata comunque venduta. Insomma, ci sono poi caso per caso su accertamenti immobiliari, bancari, accertamenti sintetici, i casi di elusione fiscale, l'IRAP, le imposte indirette, tutto trovate sul Sole 24 Ore. In generale la linea che emerge, quella che è la strategia del fisco, è quella di tenere duro e resistere nei confronti del contribuente. Per la cronaca, la notizia è di ieri sera. Il capo della polizia Manganelli, dopo che ha subito un'emorragia cerebrale, è stato operato e si trova in situazioni stazionarie, ma certo per una situazione grave. Emorragia cerebrale, paura per Manganelli, coma farmacologico dopo l'intervento, titola per esempio Repubblica, ma anche il Corriere. Ansia per il capo della polizia, è stato operato d'urgenza. Mentre vi voglio regalare questa storia che viene da Yahoo, ma che riguarda davvero tutto il mondo e in effetti ha fatto il giro del mondo. La manager Marissa Mayer, 37 anni, informatica statunitense, amministratore delegato di Yahoo, prima donna ingegnere assunta da Google, considerata una delle donne 50 più potenti al mondo dalla rivista Fortune, e che aveva puntato molto sul telelavoro, cioè lavorare a casa per rompere anche quella tradizionale modo di lavorare nell'azienda fisica, ha fatto un clamoroso dietrofront, la manager simbolo delle mamme che dice no alla flessibilità. Una pagina sul Corriere della Sera, Massimo Gaggi: Marissa Mayer alla guida di Yahoo chiude con il telelavoro. Controordine ragazzi, basta col telelavoro, le tecnologie digitali avranno pure aperto l'era dell'economia immateriale dell'uomo sempre connesso da ogni luogo. Ma quando si tratta di applicarlo ai rapporti di lavoro in azienda, il nuovo vangelo della collaborazione in rete sembra non funzionare più. Si perde in produttività. E quindi ha mandato una mail a tutti i dipendenti, al capo del personale: i dipendenti devono rientrare tutti nei posti di lavoro entro ovviamente alcune date. Insomma, basta il telelavoro, si perde in produttività. Ma come? Era uno dei guru della necessità del telelavoro, anche sul Quotidiano Nazionale. Telelavoro, ora Yahoo ci ripensa, licenziato chi non torna in ufficio. Vabbè, devo chiudere con la Gazzetta dello Sport, ma sì, il derby si astiene per la prima volta dopo 9 anni, finisce in pareggio, una partita che il Milan doveva vincere come minimo 5-1, ma insomma il senso di Balotelli per il calcio è questo. E allora il giornale radio.